Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Pomeriggio, oggi giorno di San Valentino, Cavani compie 24 anni. Si tratta finora del giocatore più decisivo in assoluto del campionato. Sentite questa statistica curata da come sempre da Franco Piantanida. Allora, Ibrahimovic ha segnato 13 gol, ha fatto 10 assist, ha firmato dunque 32 punti del Milan, che sono il 61% del totale dei milanisti. Cavani ha segnato 20 gol, che è il 50% esatto del Napoli, e nessuno ha fatto meglio finora in Europa, di cui 9 decisivi, più 3 assist, e ha portato 31 punti al Napoli. Quindi, allora, è ancora davanti per la verità Ibra per un punto, ma se parliamo invece di gol realizzati e di assist in totale, insomma la percentuale è il 63% contro il 61% di Ibrahimovic. Sono numeri che lasciano, se vogliamo, il tempo che trovano, soltanto curiosità e nulla più, ma è giusto per dire che spessore ha questo giocatore, che anche sabato ha firmato con la Roma un'altra vittoria molto importante del Napoli, non dico decisiva, ma molto significativa. Oggi festeggia il compleanno a Napoli, non sanno più cosa dedicargli. Leggo su un'ultima agenzia appena uscita che c'è un ristorante napoletano che ha appena varato il risotto alla Cavani con tante verdure, leggo, perché Edison segna in tutti i modi e quindi non può che essere colorato un risotto a lui. Poi, già che c'erano, visto che non vinceva da tanti anni a Roma, tra gli altri primi hanno proposto i cavatelli alla burina, le orecchiette alla romana, eccetera eccetera. È un modo come un altro di stemperare il giorno dopo delle partite. Se parliamo di numeri tondi, è il 100° gol da professionista con maglie italiane, quello che Cassano, tra Bari, Roma, Sampdoria e Milan, ha segnato sabato in maglia rossonera. Se vogliamo anche lì prendere un numero curioso, un numero statistico, ce n'è uno che sinceramente un minimo di perplessità me l'ha suggerito, ed è questo: nel 4-0 del Milan al Parma, il Parma, che fino a prova contraria è una provinciale che viene a giocare, che va a giocare sul campo della Capolista, in 90 minuti ha fatto 6 falli. 6 falli vuol dire un fallo ogni quarto d'ora. Ora, per carità, il fair play è uno splendido accessorio nella valutazione di una squadra, ma un fallo ogni quarto d'ora, ripeto, per una provinciale che gioca sul campo di una capolista, insomma, assomiglia a qualcos'altro rispetto al fair play. E infatti c'è stata molta maretta, si dice, nel dopo partita parmigiano. Cavani ha già superato anche Careca, che era arrivato a un massimo di 19 gol in una stagione, anche se quella era un'epoca in cui c'erano altri difensori e altri generi di marcature. Comunque ha raggiunto Careca e Jepson, se parliamo di centravanti storici del Napoli. A quota 21 c'è Vinicio, a 22 c'è Voia, che insomma è ragionevole pensare, anzi è praticamente certo, che Cavani supererà anche il record e diventerà il napoletano che ha segnato di più in un campionato. Cominciano a essere 6 anche i punti che Matri ha fruttato alla Juventus, perché 3 gol in 2 partite qualcosa significano. Ed è da notare che nelle ultime 5 partite, tra Inter e Juventus, c'è stata una vittoria dell'Inter, ma 2 vittorie della Juve e 2 pareggi. Quindi la tradizione recente è favorevole alla Juventus. Poi ne riparleremo come di consueto, con i vostri interventi in diretta, tipici del lunedì, e intanto cominciamo a sentirci il commento di Del Neri a questa vittoria di ieri sera. E direi che la squadra veniva da un periodo difficile a livello psicologico, e quindi chiaro, queste vittorie danno anche sicurezza in quello che si fa e in quello che si deve produrre. Direi che in questo momento qui abbiamo ricercato una vittoria importante sotto il profilo sia psicologico che del risultato, chiaramente, perché battere l'Inter ti rilancia moralmente in questo campionato particolare. Penso che, riassicurandoci un attimo anche sul fatto così tecnico-tattico, ci miglioreremo sicuramente quando avremo più serenità anche nelle giocate. Luca Toni è un giocatore che fa salire la squadra, un giocatore molto, molto forte fisicamente, e dà una soluzione in più, cioè la palla alta che prima non potevamo giocarla, e mentre Matri penso abbia la qualità, la caratteristica di affondare bene e di attaccare lo spazio, ha avuto 2 o 3 soluzioni importanti, quindi secondo me si abbinano molto bene. Poi avere 2 giocatori di area di rigore è importante. molte cose sono importanti, no? Come notate, non solo per Derneri, ormai per praticamente per tutto il calcio parlato di casa nostra. Vanni scrive da Cuneo, molto bello questo messaggio: in quella perfetta rovesciata di Rooney, e qui faccio un inciso, Rooney ha deciso sabato il derby di Manchester con una rovesciata ma d'alta scuola, dire poco, insomma con un capolavoro assoluto, che tra l'altro è arrivato in un momento della partita in cui Rooney, come in tutto l'anno più o meno, non la stava beccando mai, non ne azzeccava mezza, e invece questo cross di Nani, che si è un po' impennato per la deviazione di un difensore, lui si è librato nell'aria, si sarebbe detto una volta, e ha inventato un gol assolutamente fenomenale. Se pensiamo che il derby di Manchester è stato deciso da una prodezza di Rooney, quali se ne vedono uno ogni tanto davvero, e l'Inter ieri sera ha mancato il pareggio alla fine perché Eto'o ha sbagliato un gol che una volta si sarebbe detto alla Calloni, alla Blissett o come volete, comunque dallo sciagurato Egidio allo sciagurato Eto'o, capite bene che poi, insomma, spesso è vero che i risultati vengono decisi dagli episodi, è un'altra di queste espressioni un po' come tutto che è importante, ma insomma vengono decisi dai particolari, ed è un po' difficile pensare che Eto'o possa sbagliare un gol per pura sufficienza a due metri dalla porta completamente spalancata. Bene, riprendo Vanni da Cuneo, scrive: in quella rovesciata perfetta di Rooney c'è tutto il soccer, una palla che impatta perfettamente col piede di un acrobata è come un colore che impatta con la tela bianca. È vero, un capolavoro, può essere raccontato anche così, per esempio. Torniamo a... insomma, c'è un altro allenatore, anzi c'è un allenatore in questo momento, che credo... sono due, perché mentre guardavo il riassunto delle voci pronte, sono due gli allenatori del momento. Uno è Guidolin e l'altro è Donadoni. Donadoni è arrivato a 8 vittorie e 5 pareggi nelle 13 partite in cui è la guida del Cagliari. Vuol dire che ha messo insieme 24 punti in 13 partite, mi sembrano davvero tanti. Di più ancora ne ha messo insieme Guidolin, ma con una squadra certamente di caratura superiore. Ormai l'Udinese è in piena corsa per la zona Champions, si è sempre detto, e anch'io l'ho ricordato spesso, che le squadre di Guidolin in genere cedono nel finale di stagione. Non ho detto che quest'anno sia così, perché quest'anno Guidolin ha ceduto all'inizio, cioè l'Udinese ha ceduto, quindi se non c'è la flessione finale, l'Udinese rischia seriamente e meritatamente di andare in Champions League. Subito dopo l'intervallo, per strade e autostrade, sentiremo proprio Guidolin. Il commento di Guidolin a questa escalation dell'Udinese. Sono contento per la nostra Udinese perché ha giocato un'altra bella partita, abbiamo vinto su un campo difficile e adesso il nostro sogno continua. È un momento magico, indubbiamente, ci riescono le cose molto bene, abbiamo fiducia in noi stessi, fiducia nel modo di giocare, stiamo bene fisicamente, finché dura noi... saremo lì, indubbiamente, poi avremo probabilmente anche noi il nostro calo, speriamo di gestirlo bene, speriamo di poter continuare così, perché io credo, vedo la squadra che lavora, ci sono molti giovani, se acquisiscono autostima vanno sempre meglio. Vediamo alla giornata, siamo sicuramente contenti anche per tutta la gente, 2000 friulani ci hanno seguito e questo è una soddisfazione per tutti noi, perché vuol dire che si stanno accorgendo che stiamo facendo bene e che stiamo giocando un buon calcio. E dopo Guidolin avevamo detto Donadoni. I ragazzi hanno interpretato veramente la partita come meglio non potevano, e il fatto anche che siamo riusciti a sbloccare il risultato o a incrementare il risultato in circostanze dove ci vuole quel pizzico di attenzione, di determinazione, dimostrano come i ragazzi hanno affrontato subito fin dall'inizio la partita, per cui devo dire solo bravi a loro, perché sono stati veramente eccezionali, e questa è una vittoria importante contro una squadra che veniva da 6 risultati utili consecutivi, quindi sapevamo sarebbe stata una partita difficile. Scusa, c'è lavoro per Franco Piantanida. Mirko scrive: scusate, ma se permettete, Di Vaio è stato ancora più decisivo di Cavani e di Ibrahimovic, perché ha portato un totale di 22 punti su 32. Vabbè, adesso lo verifichiamo un attimo, però evidentemente si stava parlando delle due prime classifiche, insomma, di una lotta a scudetto che tra l'altro sta diventando, non è ancora un testa a testa, ma insomma dopo la sconfitta dell'Inter di ieri minaccia di diventarlo un po' di più, un testa a testa tra Milan e Napoli, che tra l'altro tra 2 settimane hanno il confronto diretto a San Siro, e quindi si avvicina probabilmente il momento decisivo del campionato, perché a inizio marzo 13, 20, 27 no, a fine febbraio c'è il confronto diretto tra Milan e Napoli, e poi un mese dopo esattamente c'è Inter-Milan, e quindi saranno le due partite, credo, che decideranno questa stagione. Antonio ha chiamato dalla provincia di Venezia, buongiorno. Sì, Gigi, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Velocemente, volevo così fare degli appunti riguardo alla partita di sabato sera Roma-Napoli. Premetto che sono un tifoso della Roma. Così, una considerazione, la prima sicuramente, il Napoli ha strameritato di vincere. Ma la cosa che mi ha lasciato veramente con il rammarico in bocca è stata proprio la quasi completa nullità da parte della Roma, sia sotto il profilo del gioco e sotto l'aspetto anche del carattere, della grinta. Ho visto una squadra completamente quasi estranea alla partita, remissiva, anche gli inserimenti che solitamente quando entrava Memez cambiava la partita. Totti è entrato a 20 minuti alla fine, ha toccato forse un pallone, due tiri in porta in 90 minuti. Una domanda che le faccio: dal mio punto di vista la Roma ha una rosa per lottare sicuramente al vertice, cosa sta succedendo? Cioè, dal suo punto di vista, che cosa le manca a questa squadra? E poi l'ultima cosa, mi auguro che, ovviamente la Roma è fuori dall'altro scudetto, mi auguro che lo scudetto lo vinca il Napoli per il gioco che esprime e soprattutto per la tifoseria. È l'unico stadio in Italia dove qualsiasi partita c'è uno stadio pieno. Ecco, tutto qua, e l'ascolto per radio. Sì, il fatto che uno stadio sia sempre pieno non vuol dire che non vuol dire tutto, perché ci sono stadi, per esempio come quello di Napoli, in cui il pieno si fa anche perché ci sono, diciamo, ingressi irregolari o comunque non controllatissimi, tornelli, mica tornelli, ce l'ha raccontato Marco Bellinazzo proprio non molto tempo fa a questi microfoni. La Roma ha sbagliato stagione, lo scorso anno ha sbagliato partenza e poi è riuscita a raddrizzarla, quest'anno ha sbagliato in pieno e credo che ci siano molti responsabili di questo, di questa, non dico fallimento ancora, ma insomma l'aria è quella che potrebbe diventare davvero un fallimento, diciamoli, una stagione fin qui pesantemente negativa. E come sempre quando i responsabili sono tanti, il primo comunque è quello che ha la guida tecnica della squadra per scelte, gestione, ambiente e eccetera. Andrea ha chiamato da Parma, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Complimenti per la trasmissione. Parlava prima di Guido Link, noi l'abbiamo avuto a Parma 2 anni, lo stiamo rimpiangendo alla grande ancora proprio da quello che ha fatto da noi. No, dice la flessione che era fine stagione, no, ma secondo me a Parma ha avuto una flessione notevole la squadra l'anno scorso, però si era ripresa bene, ha finito l'ottavo posto poi la stagione, cioè le ultime partite le ha fatte molto proprio come condizioni atletiche, mi sembrava proprio in salute. È stato un periodo dopo un bel inizio proprio la grande, poi la flessione, poi ha ripreso bene, secondo me tutto lì, volevo solo dire quello lì. E sì, però ci sono state, sì, va bene, ma ci sono state altre stagioni, cioè è un classico del squadre Guido Ling, era già accaduto, è accaduto a Udine, è accaduto a Vicenza, salvo l'anno in cui vinse la Coppa Italia, è accaduto, cioè le squadre di Guido Ling a Bologna hanno sempre avuto tradizionalmente partenze molto forti e poi flessioni finali. Quest'anno, dato che la partenza era stata disastrosa, potrebbe darsi che quella flessione non ci fosse, e in tal caso l'Udinese insomma se la gioca fino in fondo questa quarta piazza, no? Come così, come non dico come minimo, ma insomma è un obiettivo che ci può stare. Abbiamo sentito due protagonisti assoluti delle panchine di questo periodo. Potrebbe essere, cioè, un altro protagonista un po' più altalenante è Rossi sulla panchina del Palermo, perché Bondeglio insomma è continuamente sotto strali, no? Da parte di Zamparini. L'ultimo botta e risposta dopo il 2-4 in casa con la Fiorentina è particolarmente esilarante. Ne abbiamo già parlato, 100 volte l'abbiamo parlato, ma non è questione, lui che gli deve dire, io gli voglio bene, ma lui gli deve dire, devo cambiare qualcosa in difesa, se io sono infuriato è perché dopo 10 volte, 30 volte che prendiamo 2-3 gol, devo venire a dirlo a voi la prima volta che vengo qui, non è che vengo tutti i giorni, e allora se vengo la prima volta vuol dire che la mia pazienza è sopra qui, è il cretino, non è Zamparini che protesta per niente. E io voglio bene a Rossi, che è un grande allenatore, e deve solo sistemare in maniera diversa la difesa, appunto. Niente, piglio atto di quello che dice il presidente, come tutte le volte che parla. Ma la difesa, noi paradossalmente oggi avevamo tre difensori centrali. Ma il problema non era la difesa, secondo me oggi c'avevamo troppe variabili a metà campo. Abbiamo fatto bene davanti, non abbiamo magari fatto in fase di non possesso quello che dovevamo fare. Prendo atto come tutte le volte che parla, è meraviglioso. Grande degli Orossi. Zamparini potrebbe fare un altro genere di chiesa. È vero che poi la difesa prende gol, ma gli capita soprattutto quando il Palermo gioca alle 12.30, perché un'altra di queste curiosità statistiche, che ogni tanto questi numeri sono magari più significativi di mille discorsi. Io non so se i palermitani che tipo di alimentazione, che tipo di orari seguono, non ho idea, però hanno giocato 4 partite in anticipo alle 12.30 e ne hanno perse 4 su 4, quindi magari una riflessione su questa potrebbe anche avere un senso. Luca dalla provincia di Napoli, buongiorno. Buongiorno a lei, salve. Desideravo fare un piccolo intervento sul passaggio che lei ha fatto degli ingressi regolari allo Stadio San Paolo di Napoli in relazione all'intervento dell'amico veneziano tifoso della Roma. Mi farebbe piacere capire da quali fonti escono queste notizie, dal momento che probabilmente a Napoli, che è una città un pochino più calda rispetto alle altre, qualche episodio del genere può capitare, ma non credo che vada ad inficiare la media spettatori del San Paolo. La media spettatori no, Luca, certamente no, non è che la metà entra così, però insomma, un testimone oculare che è anche tifoso del Napoli e che è un giornalista del Sole 24 Ore e che spesso è nostro ospite qua, ci ha raccontato di aver visto con i suoi occhi che nel momento in cui la porta girevole del tornello, mettiamola così, come quella del Grand Hotel, si apre, non entra uno soltanto, ma si incollano in due e entrano insieme. Da lì la battuta sui 60.000 che magari non hanno pagato tutti quanti il biglietto, ma insomma era una battuta. La fonte comunque gliel'ho citata. Roberto dalla provincia di Modena, buongiorno. Dottor Garanzini, buongiorno. Io non le faccio complimenti. No, io sono bravo, meno male. Io sono un suo fan per il semplice motivo che lei, che sento tante trasmissioni, guardi, mi stancano tanto, ma la sua, lei, con il suo pragmatismo, con la sua... mi scusi, glielo do. Sì, però... Sono un suo fan. Ecco, volevo solo ricordare il gol di Wayne Rooney, no? Tanto decantato da tutti quanti, no? Il povero Michele Paramatti, che lei certamente si ricorderà, fece un gol in un intertotto di Bologna-Sampdoria, addirittura pressato un giocatore tirato per la maglia che sarebbe stato da decantare molto più di quello di Rooney. Volevo ricordare il grande Michele Paramatti. Gioca bene, gioca male, Paramatti in nazionale, lei se lo ricorderà. Guardi, ho passato metà della mia esistenza circa a cantare questo slogan, va bene, ma a tutti può capitare. C'è il signore degli ubriachi, si diceva una volta, no? Il signore degli ubriachi è quello che fa fare le prodezze, anche le prodezze da fenomeni, anche a chi invece è un giocatore normale e un serissimo professionista come era Paramatti. Diciamo che se la fa Rooney o se la fa Dior KF, che segnò una volta con una prodezza molto simile a quella di Rooney l'altro giorno, segnò una volta contro la Roma, mi pare, un gol assolutamente memorabile. Ecco, se la fanno i Dior KF e i Rooney eccetera, con tutto rispetto per Paramatti, diciamo che quella prudenza è più credibile, no? Nel senso che sembra un po' meno avventurosa. Poi chapeau a Paramatti, e già che lei ha parlato di un bolognese, Di Vaio mi informa Franco Piantanile, che ha fatto due righe di conti al volo, effettivamente con i suoi 22 gol ha firmato il 68% dei punti del Bologna, sicché al momento in Serie A è il giocatore più determinante in assoluto per una squadra, è Di Vaio, che lo è ancora più nell'ordine di Cavani e di Ibrahimovic. Torniamo a sentire qualche protagonista della domenica. Per esempio Matri, direi, che ripeto, tre gol in due partite, ma un'altra prestazione molto molto interessante, molto significativa, non soltanto per i gol che ha firmato, ma anche per la qualità, io trovo, dei suoi inserimenti, dei suoi movimenti, di riuscire a far coppia stavolta con Toni in altre situazioni diverse, di essersi adattato e non aver patito il salto dal Cagliari alla Juventus. Poi ho guardato l'orologio e quindi Matri magari è meglio che lo sentiamo dopo i mercati. Il collettivo rossonero che c'è in regia di là dal vetro ha visionato nel frattempo il gol di Paramatti segnalato dall'ascoltatore di Bologna e ha sanzionato che di Modena, se non ricordo male, ha sanzionato che il gol in effetti era una prudenza assoluta. E come sempre in questi casi si scatena la fantasia, ma soprattutto la memoria, beati voi degli ascoltatori. Per cui Matteo De Pescara scrive: anche Bressan in un Fiorentina-Barcellona fece un gol su rovesciata da fuori area, lo ricordo bene, assolutamente sensazionale. E di nuovo il signore di quelli che dicevo prima. Rummenig segnò una rovesciata straordinaria a Milano, non mi ricordo in che partita, credo fosse una partita di Coppa, ma venne annullato, scrive Pablo. In effetti è vero, fu annullato in maniera abbastanza misteriosa, tra l'altro. Di nuovo la sforbiciata di Bressan, segnala Mario Scalia da Milano. E no, per il momento basta, ma insomma ne arriveranno ancora. Dopodiché, errore di... insomma, lingua slittata nella prima parte del programma, mi segnala giustamente Francesco De Biasi da Napoli. Ho detto che Donadoni ha fatto 8 vittorie e 5 pareggi, invece sono 8 vittorie e 5 sconfitte, ma sono pur sempre, ripeto, 24 punti in 13 giornate, che sono una media, quasi una media da scudetto, e per il Cagliari è tantino. Nicolò ha chiamato da Modena, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Volevo commentare le dichiarazioni del mio presidente. Volevo dire che prima di attaccare così violentemente il nostro allenatore dovrebbe farsi un esamino di coscienza, perché questo ha venduto 3 giocatori cardine della nostra squadra, che sono stati Kier, Simplicio e Cavani, e buon Rossi ha riuscito a mettere in sesto una squadra ottima con il talento di Pastore lì davanti, che abbiamo il miglior attacco, perché credo che abbiamo fatto 44 gol fino adesso come Inter e Milan. A centrocampo con Bacinovic siamo riusciti e con una grande annata di Migliaccio e Nocerino. Purtroppo abbiamo Muñoz in difesa, che non è all'altezza di Kier, ma questa non è colpa di Rossi, ma il signor Zamparini dovrebbe fare un esamino di coscienza per dire queste cose. Sì, e magari se non un esamino di coscienza, perché insomma mi pare che stia facendo passare Zamparini discreti anni, no? I tifosi palermitani, quindi magari l'esamino di coscienza no, ma smettere di rompere le balle al suo allenatore in maniera così gratuita e cose sì. Ma d'altra parte, come scriveva un ascoltatore poco fa, Zamparini è lo Sgarbi del calcio italiano, no? E quindi lui deve recitare una parte esattamente come quell'altro recita a sua volta la sua. Mi piacerebbe sapere se esistono numeri statistici, scrive Gigi da Varese, anche per i petardi e le bombe carta nei vari stadi. E un altro, Antonio da Torino, dice: ieri a Torino è entrato veramente di tutto tra petarde e bombe carta. Sì, sì, difatti, alla faccia dei tornelli e delle tessere del tifoso. Domenico da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Io, ecco, ripeto, rispetto a Juventus-Inter, devo dire che ieri ho vista una eccellentissima partita proprio a livello di spettacolo calcistico, perché... Cioè a lei è piaciuta così Juventus-Inter? Ma a me è piaciuta molto, sinceramente. Mazza. Perché, ecco, volevo dire, credo, spero che sia logico quello che dico, ma io credo che ieri l'arbitraggio sia stato a livello ultraeuropeo, cioè eccellentissimo, cioè credo che sia Valeri, no? Valeri, 33 ecco, anni, l'astro nascente della classe arbitrale italiana, così almeno lo giudicano i suoi superiori. Insomma, io credo che, insomma, devo dire che, insomma, il livello, proprio il ritmo di gioco è stato tale dove le squadre si sono potute misurare, visto che la difesa dell'Inter era leggermente sbiadita, vedi Giulio Cesar, che sinceramente non lo vedo più come una volta, e la difesa dell'Inter... Giulio Cesar sarebbe il portiere? Del portiere. Sarebbe quello che la domenica precedente ha fermato la Roma da solo praticamente? Ma non so, Domenico, noi abbiamo due visioni un po' diverse del calcio. Io credo che l'Inter in Serie abbia giocato una delle peggiori partite della sua storia recente, degli ultimi anni. Peggiore nel senso di un primo tempo regalato, della mancanza di iniziative, eccetera. L'iniziativa presa soltanto nel finale quando la Juve era in 10. La Juventus ha giocato certamente meglio, ha meritato la vittoria, e se non ci fosse stata quella traversa finale nazionale di Eto'o, che però è demerito e non è sfortuna, ripeto, avrebbe meritato ancora più nettamente questo successo, ma dire che questa partita è stata così bella, sinceramente mi lascia un pochino perplesso. Ci sono tra l'altro stati 5 tiri in porta, se non ricordo male, no? in totale, in 90 e passa minuti, mi sembra una percentuale un po' bassina, ma soprattutto la qualità proprio, tolto qualche buon controgioco da parte della Juve, che però poi è crollata nel finale. È vero che era in 10, però anche lì si sono visti errori dilettanteschi, addirittura in disimpegno della Juventus alla fine. Io capisco essere un po' sulle ginocchia, capisco che Matri davanti, che si è battuto comunque come un leone fino alla fine, non è più in grado di darti il suo contributo completo, però insomma, uscire palla al piede in quella situazione a tre quarti e perdere i palloni che ha perso Pepe e Chiellini sono cose che immediatamente, secondo me, dequalificano il livello di un match. Domenico da Roma, buongiorno. Ah no, Domenico no, era l'ascoltatore precedente, domando scusa. Mario invece in linea da Mantova, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. E volevo sottoporre una mia considerazione. Io ieri sera ho visto la Juve. Secondo me, a parte che la squadra è molto diversa da quella di qualche settimana fa, oltre agli infortuni, secondo me Barzagli come innesto, che a me non piaceva all'inizio, però l'aver inserito Barzagli e spostato Chiellini a sinistra ha dato più sicurezza alla difesa, perché comunque Chiellini è uno che a sinistra spinge, poi quando copre stringe in centro e diventa un centrale aggiunto. Secondo me la chiave è proprio questa sicurezza in difesa acquistato, secondo me. Cioè, io ci metterei la chiave di Matri davanti anche, però può essere che la chiave, e la chiave in quel caso è duplice, perché è che Barzagli ha rafforzato la difesa e togliendo da lì Chiellini si è evitato che continuasse a essere indebolita dalla presenza di Chiellini, o meglio dell'ultimo Chiellini. Daniele da Venezia dice: se all'ascoltatore di prima è molto piaciuta Juventus-Inter, qualcuno gli fa vedere il Barcellona e gli viene un infarto. Ecco, no, non il Barcellona in sabato sera, che ha pareggiato per miracolo a Guion e che avrebbe forse anche, no, meritato di perdere, no, perché ha sbagliato un sacco di gol, però la vera grande partita di questo fine settimana l'ha giocata ieri sera il Real Madrid, vincendo a Barcellona sul campo dell'Espagnol, giocando 89 minuti in 10 per l'espulsione di Casillas al primo minuto per farlo l'ultimo uomo, sostituzione del portiere, fuori Di Maria, rimasti in 10, hanno giocato una partita spettacolosa di quantità e di qualità, vincendola soltanto per 1-0 con un gol di Marcelo, ma meritando di vincerla molto ma molto più nettamente. Tommaso ha chiamato da Como, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno. Volevo riferire che Schillaci in un Juventus di Verona aveva fatto anche lui un gol simile a quello che aveva assistito di Rooney. Molto bello anche quello lì, solo quello volevo. Totò Schillaci che non va dimenticato, è un giocatore che è stato rimosso, credo, dalla memoria collettiva, però è un giocatore che ha rappresentato, vabbè, a parte le cosiddette notti magiche di Italia 90, ma che ha rappresentato insomma parecchio comunque in quel breve lampo di storia del calcio italiano. Matri l'abbiamo già sentito che racconta il suo gol, no? Ecco, e allora potrebbe essere il momento proprio del protagonista assoluto della partita di ieri sera, cioè Matri. Beh, sicuramente è uno dei gol che ricorderò con più piacere, perché è la prima partita, diciamo, bella, di quelle che mi piaceva vedere da casa, e vedere che è finita 1-0 con un mio gol mi fa ancora più piacere. Ho sempre creduto nei miei mezzi, e è normale, quando arrivi in un gruppo importante ti devi mettere a disposizione e lavorare il doppio di quello che hai fatto prima. Adesso io sto cercando di lavorare tutti i giorni per migliorarmi, e qua c'è la possibilità di farlo con questi campioni. Scrive Raffaele, andando indietro nel tempo, un gol in rovesciata di Roberto Boninsegna, credo era 70-71, credo al Foggia, perché insomma l'abbiamo ripassato recentemente proprio con Boninsegna. Lorenzo è in linea dalla provincia di Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Io ogni tanto la chiamo per chiedere qualcosa sulla Fiorentina, visto che questo risultato così strano che c'è stato domenica. E volevo chiedere se ha visto dei segnali di ripresa, diciamo, un po' più concreti, e anche attendendo questa sfida con l'Inter. Ecco, secondo lei noi tifosi della Fiorentina cosa ci dovremmo aspettare dopo l'ultimo risultato? Grazie, l'ascolto per radio. Lorenzo, non saprei, onestamente non saprei. Se ho visto dei segnali, non credo, perché le 12.30 di una bella giornata di sole, io lascio che si esibiscano quelli che si devono esibire. Ci hanno spalmato il campionato rovinandoci, non dico la vita, ma insomma una discreta quantità di tempo libero, e quindi le devo confessare che faccio ammenda e rimedierò mercoledì sera per questo recupero, che a sto punto credo che non, insomma, non, sì, potrebbe essere un'altra soddisfazione che la Fiorentina si prende, ma ormai mi sembra un po' tardi, no, per cominciare rincorse a traguardi di grido, ma potrebbe essere una bella soddisfazione quella di complicare ulteriormente il cammino della rimonta dell'Inter, che mi pare voi fiorentini amiate sino ad un certo punto. Ultimo intervallo, strade. Torniamo in compagnia di Nicola Filippone per scoprire cosa ci ha preparato per il giorno di San Valentino. Sembra ieri. 14 febbraio 1932. Allo stadio Ascarelli di Napoli, la nazionale di Vittorio Pozzo regola con un netto 3-0 la Svizzera, in una gara valida per la Coppa Internazionale. Il pubblico si entusiasma per la presenza in campo di tre giocatori del Napoli, Colombari, Wojak e Sallustro, ma il protagonista assoluto della partita è l'italo-uruguaiano del Bologna, Francisco Fedullo, che al debutto segna tutte e tre le reti. Curiosamente, Pozzo schiera una prima linea composta esclusivamente da oriundi. Oltre a Fedullo ci sono il brasiliano Guarisi, il paraguaiano Sallustro e l'argentino Mumo Orsi. Come non ricordare, scrive Lori da Milano, un gol di Riva contro il Vicenza. Poi però c'è un altro ascoltatore che si chiama Andrea che dice: ma quando la finiamo con tutti questi amarcord? Non lo so, io sto leggendo quello che produce la vostra memoria, perché ve la invidio molto, quindi probabilmente la colpa è mia per questa ragione. Franco ha chiamato da Roma, buongiorno. Buongiorno signor Garantini, a lei e agli ascoltatori. Cortesemente vorrei una sua considerazione sul fatto che io, tifoso dell'Udinese, l'altro ieri seguivo il Napoli e ho potuto ammirare veramente la vigoria, la classe, la volontà di giocatori come Cavani, Lavezzi, che sono da poco nelle loro nazionali. Mi è venuto spontaneo il paragone con il nostro simpatico Prandelli, no? Che ancora convoca giocatori da salotto che hanno un decimo della volontà, della classe, anche direi, di questi due nominati, cioè Cassano. Quali traguardi vorrà raggiungere Prandelli con la nostra nazionale? Dalla partita in Germania dello scorso mercoledì potrebbero anche essere traguardi più che decorosi. Lei tenga conto che in questo suo panegirico vagamente esterofilo, e lo sono anch'io esterofilo, ma insomma distinguerei però, pensi che Messi è un giocatore che oggi certamente è più grande giocatore del mondo, e Messi è un uomo che all'Argentina sino ad ora ha dato pochissimo. Cavani e Pastore nelle rispettive nazionali hanno dato poco. Trattasi però di grandi giocatori, in questo momento, perché sono covate, sono annate particolari, no? Come per il vino, generazioni in questo caso. La generazione italiana attuale non è così ricca, ma dire che Prandelli, col carattere che ha e con l'esperienza che ha messo insieme, convochi i giocatori da salotto, mi sembra abbastanza offensivo nei confronti di un commissario tecnico che sta facendo il meglio possibile e che al massimo può avere, non dico la colpa, ma può avere lo sfizio di insistere un po' tanto su Cassano, riconoscendo però in lui un giocatore di grande talento, e questo è innegabile. Giovanni Parma, buongiorno. Buongiorno. Complimenti. Due cose volevo chiederle. La prima è quando tornerebbe su Rai 3 a mezzanotte a tagliare il salame. Mai, Giovanni, parliamo di roba seria. Poi Poi, ok. Ho dovuto guardare controcampo ieri sera. C'era, e volevo chiederle questa cosa, c'era, come si chiama, Di Canio, che diceva che secondo lui l'allenatore deve far soffrire anziché, come fa Leonardo, fare divertire. Leonardo, secondo lui, ha fatto il corso di conversione insieme a Di Canio, diceva. E secondo lui le squadre, secondo Leonardo, dovrebbero divertire, invece secondo Di Canio dovrebbe l'ex giocatore? L'ex giocatore, lei non ha visto controcampo ieri sera. Porca Eva, guardi Giovanni, davvero mi dispiace da matti, ma ieri sera non ci ho pensato, perché ieri sera me lo sono perso, non so perché. E però avessi saputo che c'era Di Canio, vorrà dire che per la prossima volta rimedierò, nella speranza di trovarci Di Canio. Giovanni, grazie. Andiamo a Vicenza da Karim. Buongiorno. Buongiorno, dottore. Dica. Una considerazione, vediamo se lei è d'accordo. A me mi ricorda il Milan di Ancelotti, e penso che era più forte addirittura della Juventus di Cappello, però... La Juventus di? La Juventus di Cappello. Mm. Però vinceva sempre la Juventus, perché il Milan andava a perdere punti con i squadri piccoli, fra parentesi. Invece quest'anno vince anche con i squadri piccoli, e quindi speriamo che sia un... Però in compenso perde con le grosse. No, scherzo, non è vero. Io credo che il campionato è orientato abbastanza nettamente in senso milanista. Poi è un po' presto per considerarlo, non dico aggiudicato, ma nemmeno poi così prenotato, perché c'è questo Napoli che mi sembra che stia facendo le cose veramente sul serio. Diciamo che per almeno altre due settimane, fino al confronto diretto di San Siro, il campionato tra queste due squadre è apertissimo. Poi è chiaro che se Milan dovesse vincere il confronto diretto in casa, allora il distacco rispetto a oggi almeno raddoppierebbe e i discorsi sarebbero diversi. L'Inter ieri ha perso una brutta tappa nella rincorsa, i punti sono rimasti 8, possono diventare 5 se vince sabato a Firenze, però intanto a Firenze devi ancora vincere, e poi 5 comunque resterebbero un discreto vantaggio per il Milan, quindi insomma quindi vediamo, insomma. Poi dirle i paragoni che faceva lei, sinceramente, io invoco sempre la mia poca memoria, quindi non sono in grado di risponderle. Leonardo è convinto che questa sconfitta non cambi niente, sto vedendo che abbiamo a disposizione questa voce. Allora sentiamo prima Piero dalla provincia di Piacenza, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Volevo parlare dei due allenatori di cui avete parlato all'inizio, sia Guidolin, che è veramente bravo, bravissimo, a parte... certo, in tutta la sua carriera, a parte certi momenti di defiance, ma quello che va rivalutato, che va ringraziato, a cui vanno chieste tante scuse, è Donadoni, perché ricordiamoci che Donadoni è stato mandato fuori in malo modo dalla nazionale. E Donadoni, se fosse stato lasciato a guidare la nazionale, sicuramente l'Italia avrebbe fatto decisamente meglio. Ma Piero, io qua la controprova, io la penso come lei, però la controprova non c'è. In ogni caso non siamo noi spettatori o narratori che dobbiamo chiedere scusa a Donadoni per quella cacciata. Lo facesse Abete, che si innamorò di Lippi al punto da rimporlo in nazionale attraverso poi vicissitudini davvero, davvero infelici. Mi fa piacere ricordare che ieri il Gubbio ha battuto l'Alessandria, ma non perché il Gubbio ha battuto l'Alessandria, ma perché la Manna, quello a cui gli ultra dell'Alessandria avevano sfasciato la faccia aggredendolo dopo la partita d'andata, la Manna ha parato un rigore decisivo calciato da Artico, centravanti dell'Alessandria. Parando quel rigore il Gubbio ha vinto 1-0, a distanza di 4 mesi la migliore delle vendette sportive. Buon pomeriggio a tutti, con un grazie a Fabio Cantadori in regia, a Franco Piantanida in redazione.